Nel capitolo precedente di questo testo di Chassidut abbiamo detto, innanzitutto vorrei dire che vorrei dedicare questa lezione in memoria di Fabio Shelomo Ben Avram Baruch Utiel, che oggi è il giorno della sua ricorrenza del primo anno. C'è stato poco fa un minyan al cimitero Ra'anana, che hanno fatto segnato questo con Kaddish, e noi lo ricordiamo con anche attraverso questa lezione, che sia Leilui Nishmato. Il romano. Sì, romano. Sì. Abbiamo citato nella precedente lezione, nel precedente capitolo, quanto è scritto nel Pirkei di Rabbi Eliezer. Ieri nel Talmud abbiamo citato Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer è anche autore di un insieme di insegnamenti che si chiama Pirkei di Rabbi Eliezer, i capitoli di Rabbi Eliezer. E lì c'è scritto: Ad shelo nivra olam, prima ancora che il mondo fosse creato, Hayahu ushmo bilvad. Cosa c'era prima che il mondo fosse stato creato? Solamente lui e il suo nome. Abbiamo spiegato che per suo nome il nome si intende una cosa esterna, una cosa che si usa per identificare qualcos'altro, quindi una manifestazione meno essenziale, meno interna, più esterna, più rivolta verso fuori di sé. E con questo i maestri ci stanno insegnando che ancora prima che il mondo fosse creato già c'era questo potenziale, già c'era questo nome, per così dire, cioè quella fonte dalla quale poi sarebbe stato creato il mondo. Solo che non era visibile, non era in qualsiasi maniera evidente. Perché? Perché visto che era evidente lui stesso, allora davanti al sole la luce della candela non ha alcun effetto. Questo è l'esempio che il Talmud fa, no? Shraga betiara mayahani, cioè la candela davanti al sole a che cosa serve? Non ci si rende conto neanche che c'è. In maniera simile possiamo dire che il suo nome, tra virgolette, cioè questo aspetto qui della sua esistenza, c'era ma non era Visibile. visibile, non era, diciamo così, non sembrava importante, tra virgolette, al momento. Ma la conseguenza che abbiamo detto di questa idea sarebbe che anche dopo la creazione, questo aspetto della luce, della manifestazione, della illuminazione di Akadosh Baruch Hu, ha sempre il desiderio di tornare verso la propria fonte, di essere di nuovo incluso come era prima, che quello è in realtà il suo stato naturale. Quando viene esternato è come se andassimo contro la forza di gravità per gettare qualcosa in aria, ma poi quando perde quell'energia ritorna verso il basso, chiaramente. Noi possiamo forse usare anche questo esempio qua. Una O calamita, una calamita. un elastico, una Allora abbiamo detto, quando la Torah dice Hatzemea, la assetata, la Hei sta per la, l'articolo, no? E la assetata, abbiamo detto possiamo dividere in due parole, Hei, Zemea, vi ricordate? Cioè la Hei, che rappresenta la seconda Hei del nome di Hashem, Zemea, è quello che è stessa idea di quello che abbiamo detto, il suo nome. Malchut, Tzmea, è assetata, è sempre desiderosa di risalire, di ritornare alla propria fonte. Quindi questa è la natura di questo aspetto del divino. Ora, nel capitolo di oggi, aggiungeremo un altro aspetto a questa sete. Guardiamo il testo. Od yesh ta'am. Esiste un ulteriore motivo. Le Sibbat HaTzimaon 155. Esiste un ulteriore motivo per questa sete di Bchinat Malchut, dell'aspetto di Malchut, e cos'è? Mitzad HaYerida, a causa della sua discesa. Che vuol dire discesa? Ora spiega subito. Sheyarda liyot makor la Nivraim Shelemata. È scesa, tra virgolette, cioè si è allontanata, se vogliamo, dalla illuminazione divina, fatta allontanare, per diventare Makor, una fonte per le creature inferiori, Shelemata, del mondo inferiore. Allora, questo è il secondo motivo, cioè proprio per il fatto che è lontana, che a causa di questa discesa, Mishum Ze, perciò, Naseba Toke Farazzo, si forma in essa un desiderio forte, Toke è forte. Arazzò, la voglia di correre, no? Di tornare, come abbiamo spiegato l'altra volta. Il desiderio, sì. Il desiderio, sì. Veazimaon e la sete, la lot miridata, di ritornare su da quella discesa che ha fatto. Cioè non solo è attratta per la propria natura, come dicevamo nella scorsa volta, che è attratta per la propria natura verso l'alto, verso la fonte, ma anche per il percorso che ha fatto, ha senso questa cosa. Ha fatto un percorso che l'ha allontanata, esattamente. E quindi torniamo a citare quanto abbiamo citato alla fine del secondo, del capitolo scorso, e abbiamo anche ricordato adesso all'inizio della lezione, vediamo. Vezeu Gamken, il secondo paragrafo. Vezeu Gamken, e questo è anche Inyan Mashekatuv Bazoar. Questo è anche il senso di quanto abbiamo citato dal Zohar. She mehei de mehei na se yud. Che la hei si trasforma in una yud. Ki be yud nivra olam abba. C'è scritto che la hei, ovvero Malchut, è la fonte attraverso la quale Kadosh Baruch Hu crea questo mondo. Mentre la yud è la fonte attraverso la quale Kadosh Baruch Hu crea l'altro mondo, il mondo a venire, olam abba, mondo spirituale. Quindi, vehainu, ciò vuol dire shehayud hu makor chaya neshamot velo chaya gufim. Vuol dire che la yud è la fonte della vita, dell'energia vitale delle neshamot, delle anime, e la hei è la fonte dell'energia vitale dei corpi, dell'aspetto corporeo, e la e invece la yud è quello legato all'aspetto più spirituale. Per questo chiamiamo olam haba e olam haze, in questo senso. Velachen, e perciò, ot hei, la lettera hei, appunto, che rappresenta Malchut, sheyarad liyot makor chaye olam hazeh, che viene abbassato fino a diventare, viene fatto scendere fino a diventare una fonte della vita terrena, dell'esistenza, della creazione, shehu chaye hagufim, che possiamo, possiamo chiamare la vita del corpo, la sua volontà, la volontà, cioè, di questa energia stessa che è all'interno della creazione, rizzonò, il suo desiderio è le istallek miridazo, di tornare via da questa discesa verso, che cosa? Le shorsha, verso la sua radice, verso la sua fonte. E attraverso questa idea, leggiamo qualche altra riga. Attraverso questa idea possiamo spiegare, ci dice il Rebbe Rashab, secondo il suo acronimo, possiamo spiegare quanto è detto in una frase abbastanza difficile da capire, che troviamo nel Tikkunei Zohar, che è uno degli, delle sezioni del Zohar. Cosa c'è scritto? Varei al ze al derech ma'amar rabotenu zichron vracha. È simile a quanto è detto dai Chachamim, che è appunto questa citazione del Tikkunei Zohar, che dice così: Maim tachtonim bochim, le acque inferiori piangono, dicendo Anan be'inan, in aramaico, noi vogliamo le mehve kodam malka, vogliamo trovarci dinanzi al re. Che vuol dire le acque inferiori piangono, vogliamo essere dinanzi al re. Allora, se vi ricordate, nel secondo giorno della creazione c'è stata la divisione delle acque. E parliamo quindi di acque inferiori e acque superiori. Vero? Ora, Perché piangono queste acque? Cosa rappresenta questa frase qui che abbiamo appena letto? Piangono perché sono lontani, ma vogliono risalire anche loro. Vogliono risalire, ma c'è in questo un particolare messaggio legato all'acqua. Perché quanto stiamo dicendo, l'abbiamo già detto prima, che vogliono risalire, l'abbiamo detto riguardo a tutta la creazione, a tutta l'energia vitale che viene a far parte del mondo dei corpi, cosmico come lo stiamo chiamando in questo contesto, cioè il mondo fisico. Quindi perché proprio l'acqua? Allora il Mahamar spiega, il discorso Ce spiega. l'aiuta Non so se parla della Yud. Vediamo. Allora dice così. De Maim, qual è la qualità dell'acqua? De Maim Matzmichim Kol Minei Ta'anug. La fonte di ogni desiderio materiale è l'acqua. No? Cioè, prima di tutto l'acqua fa crescere. dalla vita. Dalla vita. E inoltre, anche nel cibo stesso, per esempio, quello più desideroso è quello più liquido, è quello dove c'è più juice, dove c'è più sugo, dove c'è più. È sempre l'aspetto acqua della cosa che attrae. L'acqua attrae molto. Il liquido, l'acqua, bagnato, è questo che attrae più del secco. Perché appunto rappresenta ciò che è il carburante di tutto questo. Espresso qui con le parole Mai Matzmichim Kol Minei Ta'anug, l'acqua fa crescere ogni tipo di desiderio. Quando noi diciamo acqua inferiore, le acque inferiori, a che cosa si riferisce? Ubchinat Maim Tachtonim. Il senso della parola acque inferiori, Hainu Shehen Mekor HaTa'anugim Gashmim. Non stiamo parlando, quando si dice acqua inferiore, all'acqua che noi vediamo negli oceani, nei fiumi, nei laghi. Stiamo parlando di un livello più elevato. La fonte spirituale dei desideri materiali. Cioè lo stesso concetto dell'acqua, come stavamo dicendo, che fa crescere tutto, però in una precedente sua esistenza ancora non fisica, la fonte spirituale di questa acqua, quindi la fonte spirituale di tutti i desideri materiali. sarebbe l'acqua inferiore. L'acqua inferiore, esattamente. Allora, se noi parliamo di un aspetto della struttura, diciamo così, spirituale delle cose, che è la fonte di quelli che sono i desideri base umani, possiamo capire perché piange questa fonte. Perché questo è un modo di essere molto lontano dal volere diretto di HaKadosh Baruch Hu. E forse anche opposto. Come dice queste parole adesso Sheseu Yerida Gedolah, questa è una grande discesa. Un grande allontanamento, se vogliamo, le Ha'ora Elohi, per questa luce divina, l'Iyot Makor, che diventa una fonte, le Ta'anugim Gashmim, per desideri materiali, desideri legati alla materia. Ecco perché, Velachen Arehem Bochim, ecco perché piangono. Piangono agli Eridatan, tra virgolette, questo pianto è una reazione a questa discesa, gli Eridatan, la loro discesa, Verozim Liyot e. Cosa esprimono come desiderio in questo pianto? Abbiamo detto, vogliono essere Kodam Malka, dinanzi al re, cioè la Allot Miridatan Lemala, che dalla loro discesa potessero invece risalire verso l'alto, dalla loro situazione molto invece inferiore. Allora quando il Midrash dice, il Zohar dice, Maim tachtonim bochim, le acque inferiori piangono, noi vogliamo essere davanti al re. La Hasidut adesso ci ha aiutato a capire che non è che andiamo al mare, è come se il mare stesse piangendo. Forse è l'anima del mare. Cosa vuol dire la fonte spirituale? L'anima, l'energia vitale, divina, che da, attraverso la quale HaKadosh Baruch Hu dà vita a questa acqua, a tutto ciò che poi ne consegue, cioè tutti i desideri materiali. Questa fonte è come se piangesse, come se dicesse: perché sono stata punita, in certo senso. Perché sono così lontana dalla fonte originale divina, fino al punto che divento la fonte per ciò che può essere potenzialmente, come dicevi tu, contro la volontà di Hashem. Per chi ci si trova dentro, allora non realizza tutto questo. Però la fonte è come una neshama, è come un'anima che ha presente tutto ciò. E quindi è questa cosa, per lei, è fonte di questo pianto, per così dire. Questo sentimento di, come dicevamo prima, voler avere sempre il desiderio di risalire verso sopra. Esattamente quello che dicevamo prima, anche nello scorso capitolo, la Hei diventa una Yud, lo stesso concetto del voler risalire verso la propria fonte, espresso attraverso le parole dei nostri Chachamim che alludono a queste cose nelle varie fonti, nei Midrashim, nel Talmud, nel Zohar. E queste fonti che stiamo studiando qui ci sta aiutando ad entrare meglio nell'ottica di qual è il senso di queste cose. Cioè abbiamo citato diverse cose che in realtà sono tutte la stessa cosa. Atzmea, la setata, l'acqua che piange, la Hei che diventa un Yud. Stiamo dicendo una cosa sola, che per due motivi per ora abbiamo visto, scusa, per due motivi. Un motivo è, cosa è il motivo che abbiamo visto l'altra volta? Che la sua natura come il fuoco è quella di tornare verso l'alto. La seconda motivazione che abbiamo visto oggi è che non è solo per la sua natura, ma anche per la sua condizione. Qual è la condizione? L'uscita effettiva di allontanamento. Esattamente, effettivo. Quindi c'è un allontanamento che rende molto lontana la rivelazione di Hashem. Per natura si allontana. Per natura vuole tornare sempre, vuole sempre essere vicino. Però di fatto si allontana. E di fatto quando viene fatta allontanare, visto che è una grande discesa, allora quella sete diventa ancora più forte. Fisicamente, praticamente il mal crea l'evaporazione, che è il mal che vuole risalire su, però lo ributta nella sua... È vero, si esprime anche nel fisico, possiamo vedere continuo, la dinamica. È quello che stiamo dicendo, che questa stessa dinamica esiste perché? Perché nella fonte spirituale esiste questa dinamica. Non perché esiste nel mare, esiste... No, è il contrario. Sì. Però noi siamo, come dicevamo prima, cambia la prospettiva. La Chassidut dice spesso, c'è scritto, Kel de'ot Hashem. Nel Teilim lo leggiamo domani nel Salmo del giorno. Kel de'ot Hashem. Kadosh Baruch Hu, un Dio di de'ot. Cosa sono de'ot? Opinioni. Idee. Perché due? Perché plurale? Che vuol dire due opinioni? Due punti di vista, due prospettive. Ci sono due modi di vedere il punto di vista divino delle cose. O dall'alto verso il basso, o dal basso verso l'alto. Chiaramente noi vediamo dal basso verso l'alto. Noi vediamo prima il mare, poi cerchiamo di capire come funziona nella fonte del mare. Però dal punto di vista del divino, chiaramente è l'opposto. E quindi è tutto più chiaro. Alberto, scusa. No, prego. Scusa, ma se si volesse un attimo inquadrare, si parte comunque da un concetto di acqua effettiva, che di acqua materiale, che è fonte di vita. È un richiamo, si usa questo come esempio, però poi si passa al livello più di anima, tra virgolette, sì, di questa, la fonte di questo, di quest'acqua, sì, perché a livello spirituale è la fonte spirituale dei desideri terreni. È la fonte spirituale dei desideri terreni, esattamente. Sì? Quindi la stessa dinamica, ma riportata, sì, a un livello più elevato. E quindi è un concetto di lontananza ancora maggiore rispetto alla lontananza effettiva della discesa, mm-hmm, perché è più di sostanza, è più spirituale. No, la lontananza è maggiore quando si arriva al materiale. Non quando si arriva al No, spirituale. no, questo a livello spirituale del desiderio materiale. No. No, no, no. Non è il desiderio spirituale del desiderio immateriale. La fonte spirituale del desiderio immateriale. Vuol dire ogni cosa. Allora, spiego meglio. Ogni cosa che esiste, noi vediamo il risultato finale. Ma c'è tutta una catena che porta, che fa sì che ci sia questo risultato finale. E quindi, quando noi vediamo un gallo che ci sveglia la mattina, questo gallo è l'espressione materiale di un concetto simile che già esiste in un piano più elevato, più spirituale. C'è scritto, per esempio, che l'angelo Gabriel sveglia le anime dei tzadikim. Non so cosa vuol dire esattamente sveglia. Bisogna capire, perché non è che c'è... le anime devono dormire, stiamo parlando nel Gan Eden. Allora, l'angelo Gabriel sarebbe una fonte più elevata di quello che in questo mondo diventa un gallo. Cioè, capito? Ogni cosa che esiste non esiste, non viene dal nulla. La creazione fisica è qualcosa dal nulla, ma la struttura della cosa e l'anima della cosa esiste su tantissimi livelli. Trasposizione sul livello, sul piano terreno, diciamo, il materiale di qualcosa che già c'è. Per questo dicevo prima, la prospettiva dall'alto è diversa dalla nostra, anzi è l'opposto proprio. Noi dobbiamo partire da qui e cercare di risalire, però dall'altra prospettiva è il contrario, chiaramente. Allora, quando noi stiamo parlando qui delle acque, allora abbiamo detto, certo, le acque spirituali sono la fonte delle acque materiali, che le acque materiali fisicamente fanno alimentare ciò che poi diventa il desiderio dell'essere umano, ok? Ma a livello spirituale, la fonte di queste acque è già qualcosa di lontano, diciamo così, è già un allontanamento, che questo possa essere una fonte di quello che poi può essere un desiderio che va contro la volontà di Akadosh Baruch Hu. Quindi accento al desiderio. E già c'è il pianto, quindi, cioè il desiderio, pianto, appunto, il pianto per voler tornare. Quindi la... Sì? No, no, la distanza, sì, che c'è tra noi e Akadosh Baruch Hu è equivalente nel mondo fisico. Se tu stai a 5 km, diciamo, stai a 5 km pure nello spirituale, la tua fonte. Sì, perché non se ho cresco... capito cosa vuol dire. Nel senso, se io sto... Come posso spiegare? Se... A qua al cancello, no? Diciamo, sì. Per assurdo, il cancello è l'obiettivo. Sì. Se io sto qua, nel mondo fisico, a quella distanza, vuol dire che è equivalente... la mia distanza spirituale è equivalente. Sì, ma la distanza qui la stai misurando tra cosa e cosa? Tra qui e il cancello. Cosa c'entra con quello che succede nel mondo spirituale? Per dire, perché se c'è una distanza, se mi trovo in una distanza fisica... Ma non c'è una distanza fisica da Hashem? C'è. Il concetto della distanza Beh, nostro... Beh, c'è una... C'è, sono nella, forse, nella sfera fisica... Posso interromperti? Certo. La distanza spirituale sì? Si esprime anche... in una maniera fisica. Ok. Quindi è quello di infatti, cioè, non che c'è una sorta di distanza fisica che corrisponde a una distanza spirituale. No, male, allora. Esatto, no, per quello volevo riesprimerlo in questa maniera, no, credo che sia questo quello che sì. Dici. C'è una persona che si sente lontana e si comporta in maniera, diciamo così, non lontana. Conforme, lontana. Perché? Perché su tutti i piani, su tutti i livelli, c'è questa lontananza. E questo però va approfondito, perché effettivamente all'interno della persona c'è sempre un punto, una scintilla, che rimane legata, come dicevamo anche l'altra volta, anche nel momento in cui una persona fa una averà, mai sia, fa un peccato, in quel momento stesso, che è il momento di più grande lontananza da Kadosh Baruch Hu, c'è una parte di lui che non è mai stata lontana, che ancora è vicina, ancora è unita con Akadosh Baruch Hu, solo che è troppo nascosta in quel momento. La persona non si rende neanche conto che esiste quel legame in quel momento. Quindi dipende anche, sì, l'aspetto più evidente della persona corrisponde chiaramente al suo comportamento, che corrisponde alla sua vicinanza o lontananza spirituale. Però non è che per avvicinarsi deve fare qualche riprogrammamento a livello spirituale. No, no. A livello materiale lo deve fare, e poi si avvicina, cioè il vantaggio che abbiamo noi in questo mondo, che non hanno gli angeli o le neshamot dei tzadikim che sono nel Gan Eden, è quello che attraverso la materia possiamo andare in tutte e due le direzioni. Attraverso una semplice mitzvah materiale possiamo tornare uniti con la Kadosh Baruch Hu, cosa che forse senza il corpo materiale ci vorrebbero 100 anni, per risalire livello per livello le anime, eccetera. Quindi quello che è il nostro esattamente, no? Kalkalatan zeuta kanatan, cioè la loro rovina è anche la loro soluzione, è anche la loro takana, no? La loro rettificazione. Ken, kalkan. Ok? Un po' più chiaro? Sì. Bisogna bisogna approfondire, bisogna ripassare. Che non riuscite a distinguere tra il reale, vuol dire il materiale, e il sublime. Questa è la difficoltà. Sì, non è facile. No. Sì. No, dimmi. Se vuoi condividere, siamo lieti di sentire. Una cosa che avevo letto su... Era il dovere del cuore, che parla tutto il capitolo. Chovat ha-levavot. Chovat ha-levavot. Sì. Un modo di poter trovare a Kadosh Baruch Hu. Come si fa a trovare a Kadosh Baruch Hu? Non si va alla ricerca. Sì, questa è tutta un'opera che approfondisce il percorso, diciamo, più interiore della persona. Ok, allora, vediamo questo terzo paragrafo. Che hine ot he, ora la lettera he, shehu chayut kol haolamot, che come abbiamo detto rappresenta la fonte dell'energia vitale di tutti i mondi, letteralmente, cioè tutti i vari livelli di esistenza. Nikra shchina, questa è la stessa cosa che si chiama a volte la shechina. Quando noi diciamo la shechina, è in realtà un riferimento a questo aspetto del divino, a quello che è rappresentato dalla Sefirah di Malchut e quindi dalla lettera Hei, la seconda lettera Hei del nome Havayah. Perché si chiama Shekhinah? Shekhinah viene dal verbo Lishkon. Lishkon vuol dire risiedere, abitare, Shochen. Perché si chiama così? Perché ci si riferisce a un livello che viene a risiedere, tra virgolette, nell'aspetto più basso della realtà, più inferiore. Le fische nikrashina le fi, poiché se yoredet umitlabeshet bibria yetzira asia. Perché questo aspetto di Malchut, questo aspetto di questa Hei, che noi chiamiamo anche Shekhinah, si chiama Shekhinah perché? Perché scende per abitare, dimorare negli ultimi dei quattro mondi, Beriah, Yetzirah, Asiyah, cioè negli aspetti che già sono più esterni rispetto alla fonte che crea. Infatti è scritto nella Torah, Moshe Katuv, Ve'asu li Mikdash, e costruiranno per me un santuario, Ve'shachanti betocham, ed io risiederò al loro interno. Veshachanti, lo stesso termine di Shekhinah, risiederò al loro interno, cioè hainu shebehechal kodesh hakodashim, all'interno della stanza, l'aula del kodesh hakodashim, haya ikar hagilui, da lì veniva emanata la maggior parte, la parte più essenziale della rivelazione divina su questo mondo. Umisham, e da quel luogo nimshach e arata le achayot kol haolam, e da lì poi viene esteso, diciamo, viene estesa questa illuminazione per dare energia vitale, le Hachayot, tutto il mondo. È come se dicessimo che quello è il cuore del mondo. Così come dal cuore parte l'energia del corpo, attraverso il battito del sangue, allora in questo senso il cuore è un organo molto importante, chiaramente. In questa maniera possiamo, come vedremo adesso nel testo, possiamo applicare questa metafora ad un posto centrale in cui risiede un'energia più concentrata, più intensa, che viene da Kadosh Baruch Hu, per poi espandersi, estendersi in maniera più, diciamo così, meno concentrata in tutta l'esistenza. Mo al derech mashal, possiamo capirlo per via di una metafora. Vi ricordate che mashal vuol dire esempio, metafora, analogia. Chayuta neshama mechayet aguf, l'energia vitale dell'anima che dà vita al corpo, ikara shnata ubalev, soprattutto il suo, diciamo, si posa soprattutto nel cuore. E da lì, Misham nimshach lechol ramach evarim. Ramach è un, non è un acronimo, è un numero, 248. Resh 200, Mem 40, Chet 8. E da lì a tutti 248 membra. C'è scritto che una persona ha 248 membra del corpo. Cioè tutto il corpo. Veichal kodesh hakodashim hu halev shel kol haolam. E l'aula del Kodesh HaKodashim è considerato spiritualmente il cuore di tutto il mondo. Moshe Katub Bazoar, come questa cosa è scritta nel Zohar. Al Ken Hayabo Ashrat Ashkina. Ecco perché era lì, così come l'anima è la vita del corpo, anche il mondo è come se fosse un grande corpo. Questa analogia è scritta nel Avot di Rabbi Natan, una fonte di un trattato di Avot allargato, Avot e Rabbi Natan, che lì c'è scritto tutto ciò che c'è nel corpo c'è nel mondo. Il mondo è un grande uomo e l'uomo è un piccolo mondo. Fa tutti questi paragoni. Allora uno dei paragoni è questo: il Kodesh HaKodashim è come se fosse il cuore di tutto il mondo. Al Kenayabu Ashrat Ashkina, ecco perché era proprio lì che si posava la Shkina, che si rivelava la presenza divina. La Shkina, di nuovo, è un livello specifico della rivelazione divina, cioè quello di Malchut, quello attraverso il quale Kadosh Baruch Hu crea. Ecco perché si chiama Shekhinah, perché viene a risiedere, per così dire. En behechal kodesh hakodashim di bria yitzira vasia. Cosa succede adesso che non c'è il Kodesh HaKodashim fisicamente? Ecco che aggiunge queste parole. La stessa cosa si applica anche all'aula di Kodesh HaKodashim di ogni mondo, di Briah, Yetzirah, Asiyah. Fisicamente il Kodesh HaKodashim non esiste, ma spiritualmente, concettualmente, su un altro piano la stessa cosa avviene e esiste. Moshkatub Sefer Shel Beinonim Perek Nun Bet, come scritto nel Tanya, 52esimo capitolo. Se non esiste, sì. No? Se hai detto prima che è il cuore del mondo, diciamo, no? Sì. È vero che esiste in altri livelli che vivono attraverso questo cuore, diciamo. Sì. Però, allora, come fa il mondo fisico a esistere se non esiste nel fisico? No, non è che non esiste. Non esiste quella espressione, non esiste quella espressione in maniera più rivelata, come abbiamo avuto il merito quando fisicamente c'era il Kodesh HaKodashim, che questo aspetto della creazione era più evidente. Quindi incompleto il mondo, diciamo. No, era più evidente, adesso è meno evidente, ma sempre presente. Cioè stiamo parlando dell'energia attraverso la quale Kadosh Baruch Hu crea e mantiene l'esistenza del mondo, quindi se non ci fosse, allora il mondo non ci sarebbe. È una questione di più e meno evidenza, più e meno rivelazione, non di più e meno presenza. No, che non funziona. Se non funzionasse, non saremmo qui. È quello. Sono cose che si vedono, ma esistono sempre. Che non si vedono. Non si vedono, ma esiste l'elettricità, sì. Non la vedi. Bravo, questa è una buona analogia. Però alcuni la vedono. Siamo lontani, però. Vogliamo continuare o vogliamo fare una pausa? Continuiamo. Un pochino, qualche riga. Nella Torah, quando si parla della creazione dei luminari, si parla di Mehameorot HaGdolim, i due grandi luminari. E si sta parlando lì nel contesto del Sole e della Luna. Ma si parla dei due grandi luminari come se fossero equivalenti, con una forza uguale. I due grandi, non il grande e il secondo più grande, i due grandi. Però poi più avanti si parla Hamaor HaGadol, vero? Il grande luminario, Hamaor HaKaton, Mishel Talayla, è quello più piccolo che vediamo di notte. Veta Kochavim, giusto? E le stelle. Però prima parte da due grandi e poi diventa uno grande e uno piccolo. Allora il Talmud dice, Talmud riporta in una fonte midrashica, nel Talmud del trattato di Hulin, la Gemara dice come che si è trasformato da due grandi in uno grande e uno piccolo, molti conoscono questo midrash, dove dice che la luna ha detto, si è lamentata con il creatore dicendo: non è possibile che due re abbiano una sola corona. Che vuol dire due grandi luminari? Vuol dire abbiamo la stessa forza, stata importanza. Stata contentata subito. Allora la Gemara dice, HaKadosh Baruch Hu ha risposto alla luna: Lechi ma'ati et atzmech. Ok, allora renditi più piccola. Hai ragione. Non è più un re. Potevo stare zitto, no? Però la conversazione non è finita lì. La Gemara continua e dice che la luna si lamenta dicendo: forse devo essere punita o comunque ridimensionata, ridotta, perché ho espresso un concetto che è corretto di per sé. Cioè, è giusto. Quello che dico ha una certa logica, allora per questo motivo deve essere, devo soffrire, devo pagare. Allora c'è scritto, HaKadosh Baruch Hu risponde consolandola: tu avrai un ruolo non solamente di notte, ma anche di giorno. Allora lei risponde: a che cosa serve, appunto, dicevamo, la fiamma della candela davanti al sole, no? A che cosa se sì, sono presente anche di giorno, ma a che cosa serve davanti alla luce del sole? Allora una nuova consolazione gli viene data. Il popolo di Israel farà i conti, i calcoli dei loro giorni, dei loro anni, secondo il tuo ciclo della luna. Allora la luna risponde che però alcune cose si possono calcolare solamente secondo il sole, perché per le stagioni e varie ricorrenze annuali seguono il ciclo del sole. Allora HaKadosh Baruch Hu risponde con ulteriore consolazione nelle parole del Talmud: i tzadikim, ci saranno dei tzadikim, dei grandi tzadikim che saranno nominati per te, la luna. Che vuol dire nominati per te? Come è nominata la luna nella Torah? Hamaor HaKatan, il piccolo luminario. Allora l'appellativo HaKatan verrà applicato ai tzadikim. Yaakov HaKatan, Shemuel HaKatan, David HaKatan, tutti questi erano i più giovani, i più piccoli. E venivano chiamati HaKatan, il piccolo. Perché? Dice il Talmud, questo si lega alla storia della luna che si è dovuta ridurre. Ok? Allora, questo è il senso del Midrash, che sembra una bella storiella, però ora vediamo la forza della Hasidut, come spiega questo Midrash nel suo senso molto più profondo di quanto possiamo immaginare leggendolo così letteralmente. Vediamo queste qualche riga per iniziare questa spiegazione. Zeu inyan lechima ati et atzmech. Questo è il senso profondo di quanto è detto nella Gemara, che Hakadosh Baruch Hu dice alla luna: vai a ridurti, a ridurre te stessa. Ma a ti, come me'at, renditi più piccola. Cos'è questa riduzione? La riduzione è una discesa. C'è a miut hu inyan yeridata liot rosh la shualim. È la sua discesa per diventare il capo delle volpi. C'è scritto questo è un parafrasando, c'è scritto nel Masechet Pirkei Avot, nel trattato di Avot, c'è scritto sì sempre una coda dei leoni e non il capo delle volpi. Cioè è preferibile essere in coda, ma in compagnia dei veri grandi, che essere il primo e a capo e la guida, però delle volpi. Quello dei Mussolini che dicevano. Mussolini. Anche lui ha studiato Pirkei Avot. A destra un giorno da leone, meglio che peggio, 100 giorni da pecora. Oh, allora, cosa è questa diminuzione, questa riduzione? È la discesa che è come se diventasse il capo delle volpi, cioè, che rappresenta una energia divina che dà vita a quella che è la vita inferiore, che poi arriva a quella materiale, quella più lontana dall'illuminazione di HaKadosh Baruch Hu. L'ered, cioè quindi una discesa che viene bibria yetzirasia negli aspetti dei mondi inferiori, ulehachayotam, e di dar loro questa energia vitale. La reticenza, la non volontà della luna di fare questa riduzione, cioè questa discesa, deriva da che cosa? Dal fatto che questi mondi, come adesso vediamo nel testo, non sono 100% puri, sono creati con un miscuglio di bene e di male. Tov varà, il mondo di, diciamo, il mondo reale. Velor azzetale maet, le redule maet e tazma, non voleva, tra virgolette, scendere e ridursi. Mahamma c'è aulamot, ibriai, tzirasia, hemme uravim tovara, perché questi mondi sono composti da un miscuglio, me urav, un insieme di bene e di male. Questo già per i mondi di Beriah, Yetzirah, sia anche nel loro senso spirituale. Ma gamba sia, a maggior ragione nel senso più materiale del mondo, è l'ultimo mondo, quello di Asia, dove c'è anche la scelta che l'uomo ha, il libero arbitrio. C'è Bechiran Nitnah La'Adam, che l'uomo ha lì il libero arbitrio. Yuchal Chas V'Shalom Nivchor Gambara, e potrà scegliere proprio la via del male. Esatto. Cosa succede quando l'uomo sceglie la via del male? Ve aliedeise, tramite questa scelta, yachole hamshich gamken chayut elokut bechol advarim. L'uomo che ha una forza incredibile a livello spirituale, quando usa questa forza verso la direzione non voluta, la direzione sbagliata, cosa succede? È come se quella forza e quell'energia divina che è dentro di lui è presa in cattività, in prigionia, in questi aspetti non voluti della creazione. Allora non è che va solamente, porta con sé tutta una schiera, diciamo così, che è nascosta dentro di lui, che è la sua fonte spirituale, e va a finire chissà dove. Si usa l'esempio della prigionia, di essere come presi in cattività. Al derech ragleha yordot mavet, c'è scritto nel Mishlei, le sue gambe fanno scendere nella morte, scendono verso la morte. Cioè il comportamento, la parte bassa, la gamba, il piede, cioè il modo di fare più base, che non dà considerazione agli aspetti più elevati, porta verso la morte. La morte vuol dire laddove non si sente l'energia divina. Uktiv ed è scritto Hashochen itam betoch tumotam, la Torah dice, HaKadosh Baruch Hu Shekhinah Shochen risiede itam assieme a loro, alle persone, agli ebrei, betoch tumotam, all'interno della loro impurità. Come arriva la Shekhinah all'interno dell'impurità? Attraverso il peccato dell'uomo. Il comportamento negativo dell'uomo fa sì che, in un certo senso, porta con sé la Shekhinah in ogni sua azione. Perché ce l'ha già dentro. Perché ce l'ha già dentro, perché è quella la sua energia vitale. Ecco che quando facciamo Teshuva si dice di aggiustare la Hei. Far ritornare la Hei, esattamente. Concludiamo il paragrafo. Ve'alken ne'emar. E per questo è detto appunto in quello stesso contesto del versetto che abbiamo appena citato, che è la Parashah di Ahare Mot, dove si parla di quello che stiamo studiando nella Mishnah, di tutto il servizio di Kippur nel Bet HaMikdash, e lì c'è scritto che il Kohen Gadol, attraverso il Korban che lui fa, Vechiper ala Kodesh, Mitumot bene Israel. È molto strano, Vechiper ala Kodesh, e spia per il Kodesh, per il sacro, perché il sacro deve essere spiato? Deve spiare per il profano, non per il sacro. Mitumot bene Israel, per le impurità dei bene Israel, vuol dire il bene Israel attraverso un'eventuale impurità rendono, tra virgolette, impuro anche il Kodesh, se lo portano con sé. Allora la Kapara non è per il profano, è per il Kodesh che deve ritornare verso la sua fonte. Certo, perché è sempre... Veseu, e conclude con l'ultima citazione, Et Mishkan Hashem Timed, del libro di Bamidbar. Inquinato. Ha contaminato, reso impuro, Timè, il Mishkan di Hashem. Come puoi rendere impuro il Mishkan, il santuario? Questo è il senso, che ognuno di noi dentro ha un santuario, anche e quando ci comportiamo, certo anche con chiunque, quando ci comportiamo in maniera che non è conforme alla volontà di Hashem, allora non è che diciamo, vabbè, mettiamo un attimo un fermo sul nostro legame con Hashem e andiamo a fare un'altra cosa, poi torniamo. Non c'è questo fermo, non esiste. Te lo porti sempre con te. E quindi ecco che lechi ma'ati et atzmech. Viene detto alla luna, riduciti, diminuisciti, cioè vai a portare questa energia divina verso gli aspetti più bassi della creazione per dar loro vita e esistenza. E la luna protesta, cioè in altre parole, che vuol dire la luna protesta? Quello che dicevamo prima, sete! Malchut vuole sempre tornare verso su. E poi teme che l'uomo invece con la sua possibilità di scegliere la porti ancora... Può rendere ancora peggiore la situazione, esattamente. E questo è il senso di quanto si dice Galuta Shekhinah. Sempre spesso si sente il termine Galuta Shekhinah, cioè l'esilio della Shekhinah. Possiamo parlare dell'esilio delle persone, dell'esilio delle cose, ma perché l'esilio della Shekhinah? Come sta la Shekhinah in esilio? E questo è il concetto. L'esilio della Shekhinah è causato dai nostri atti che non vanno bene. Comunque l'uomo in questo caso ha una grande potenza di poter bravissimo tenere la Shekhinah. Bravissimo, questo ci spiega, cioè ci illustra un po' la grande potenza che noi esseri umani abbiamo, che non ce ne rendiamo spesso conto, abbiamo male di cosa abbiamo in mano e di come possiamo usarla. Speriamo Bezrat Hashem sempre per il bene. Amen. Amen.